Ti lascio paese dei sogni, paese d'amore, e porto con me questo piccolo tuo souvenir. È solo una bianca conchiglia con l'eco del mare che dice all'orecchio sommesso: non devi partire. Io parto ma lascio il mio cuore sul Vomero e a mare chiaro, e sogno quest'ultima splendida notte d'amore. Dimmi tu, addosta, dimmi tu, souvenir d'Italia, che già avevo trovato, dimmi tu, souvenir d'Italia, ma perché non mi fa più dormire, solo tu. Se ne chiuda così e me lascia partire, souvenir, souvenir d'Italia, dimmi tu addosta, dimmi tu, souvenir d'Italia, che già fa potrò. D'Italia, ma perché non mi fa più dormire, solo tu puoi dire, se ne chiuda così e me lascia partire, souvenir, souvenir d'Italia.